Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera, lo avete sentito dalla sigla. Buonasera da Deborah Rosciani, questa sera in conduzione a Focus Economia per raccontarvi i fatti economico-finanziari della giornata. Sono tanti, aspettiamo trepidanti la riunione del Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera alla manovra di bilancio, che naturalmente poi dovrà essere presentata a Bruxelles. È una manovra imponente, 30 miliardi di euro, e ci sono tanti punti qualificanti o meno a seconda dei punti di vista che la caratterizzeranno, e ci sono tante indiscrezioni che emergono ora dopo ora rispetto appunto al documento, alla lista degli interventi che sono stati messi a punto dai tecnici appunto per questa iniziativa. Le ultime novità, le iniziative last minute: la tassa sugli imballaggi di plastica, la revisione delle accise su diesel e gasolio commerciale, ma anche l'aumento delle accise su chi fuma e delle tasse sui giochi. Insomma, tanti punti da raccontarvi, lo faremo più tardi con il nostro collega del Sole 24 Ore, Gianni Trovati. Parleremo poi anche delle questioni di carattere economico, le notizie economiche di carattere internazionale ce la faremo a portare avanti la trasmissione stasera. A quest'ora siamo anche un po' stanchi dopo essere arrivati presto stamattina, e faremo un punto della situazione anche sull'ennesima puntata che ci racconta Donald Trump sulla questione appunto dei dazi commerciali. Abbiamo questo accordo di massima che è stato siglato venerdì, che in realtà sarebbe più che altro un accordo quadro, ostentato in realtà dall'inquilino della Casa Bianca come un accordo sostanziale. È un'intesa di principio che dovrebbe essere ancora finalizzata, e peraltro dal fatto che il mercato, che gli operatori non ci credono più di tanto rispetto all'intesa raggiunta appunto con la Cina, lo vediamo oggi anche dai mercati. L'Europa va male da questa mattina, adesso in realtà meglio rispetto agli aggiornamenti che abbiamo fatto nella prima parte della seduta. Anche Wall Street è sostanzialmente piatta, quindi piuttosto guardinga rispetto a queste novità. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Apriremo però con un esame dei profili che si sono visti attribuire oggi il premio Nobel per l'economia. Tre economisti che da anni studiano le dinamiche della povertà mondiale. Per ora ve la racconto in maniera così superficiale, ma faremo un punto della situazione anche sugli studi degli economisti su questo mondo, un mondo che peraltro ci racconta delle diseguaglianze sociali sempre più ampie, aree dove la povertà non sembra volersi minimamente si riesce appunto a combattere. E quindi racconteremo di questi tre economisti che hanno implementato un approccio scientifico appunto a questo tema. Ve ne parleremo tra poco. Chiaramente, come sempre, vi racconteremo anche la giornata di borsa. Per Milano in questo momento abbiamo un quadro negativo, ma migliore rispetto alla mattinata: meno 0,25% sul FTSE MIB. Migliori titoli in questo momento lo è da stamattina Juventus più 3 punti, Amplifon più 2, Banco BPM Biperbank in rialzo di circa 1,5 punti, mentre i cali più significativi: Tenaris meno 3, Finecobank meno 2,27, CNH Industrial meno 1,45. Il dettaglio della giornata di borsa anche in questo caso lo faremo più tardi. Ovviamente, come sempre, potete intervenire con i vostri commenti al 349-238-6666. Riceviamo i vostri messaggi attraverso l'SMS, ma anche su WhatsApp. Direi di dare velocemente il via alle notizie in breve. La notizia è nota già da venerdì, ma naturalmente la reazione di mercato l'abbiamo vista oggi. Stati Uniti e Cina hanno raggiunto questo primo sostanziale accordo commerciale, la prima fase di un'intesa che sarà più ampia, lo ha annunciato Donald Trump. Abbiamo centrato, ha detto il presidente americano, una sostanziale fase 1 dell'accordo. L'intesa, ha detto Trump, include anche la proprietà intellettuale, i servizi finanziari e 40-50 miliardi di dollari di acquisti di prodotti commerciali. Questa intesa cosa scongiura la partenza del nuovo round di dazi che era fissata per domani e probabilmente potrebbe annullare anche il nuovo round che era previsto per dicembre. Tutto questo nella giornata in cui si sono appresi i nuovi dati che arrivano dalla Cina, che riguardano il surplus commerciale di quest'area, che è salito a 39,65 miliardi di dollari a settembre, a fronte dei 30,26 miliardi di settembre 2018. L'export si contrae del 3,2% e quindi la Cina subisce il peggior calo da febbraio scorso. È ceduto però anche l'import per il quinto mese di fila, ha perso l'8,5% dopo il segno meno di agosto. Il segno meno appunto che era stimata alla vigilia, in realtà il mercato pronosticava un calo di circa il 5%. Tuttavia a gennaio-settembre l'attivo commerciale sale a 298,92 miliardi di dollari. I premi Nobel per l'economia, per il momento vi cito solamente i nomi, poi i loro profili li approfondiremo tra poco. Il riconoscimento per l'economia è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo, sono sposati peraltro, il primo indiano, la seconda è francese, Michael Kremer, per l'approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. I tre economisti hanno introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili circa i migliori modi per combattere la povertà. La ricerca condotta dai tre ha considerevolmente migliorato la nostra abilità, ha detto l'Accademia appunto svedese Reale delle Scienze, di lottare la povertà globale. In soli due decenni il loro nuovo approccio ha trasformato l'economia dello sviluppo, che ora è diventato un fiorente campo di ricerca. Velocemente andiamo a Londra, dove il governo britannico di Boris Johnson ribadisce solennemente l'intenzione di attuare la Brexit il 31 ottobre in apertura del Queen's Speech, letto oggi dalla regina a Westminster. Nel contempo indica l'obiettivo di un nuovo accordo di partnership con Bruxelles, ma anche di metter fine alla libertà di movimento, riferendosi naturalmente alla questione aperta con l'Irlanda. Fra le leggi del programma dei prossimi mesi, confermata l'intenzione di introdurre nel 2021 un sistema a punti all'australiana per consentire gli ingressi di nuovi immigrati nel regno sulla base della capacità. Sentiamo la regina Elisabetta. My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. La priorità del mio governo è sempre stata quella di garantire l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea il 31 ottobre. Il mio governo intende lavorare a una nuova partnership con l'Unione Europea basata sul libero scambio, su una cooperazione amichevole. I ministri lavoreranno a nuove norme su pesca, agricoltura e commercio, cogliendo le opportunità che sorgeranno all'uscita dall'Unione Europea. Una nuova legge sull'immigrazione getterà le basi per un sistema giusto, moderno e globale. Il mio governo rimane impegnato nell'assicurare che i cittadini europei residenti, che si sono integrati e hanno dato un grande contributo al Regno Unito, abbiano il diritto di rimanere. La nuova legge includerà misure che rafforzeranno questo impegno. Saranno prese misure per garantire sicurezza, stabilità e nuove opportunità per i servizi finanziari e legali. Il nuovo piano economico del mio governo sarà sostenuto da una strategia fiscale responsabile, che investa nella crescita economica e allo stesso tempo mantenga la sostenibilità dei conti pubblici. In attesa di avere notizie sul Consiglio dei Ministri, che dovrebbe riunirsi, non sappiamo se oggi, forse anche domani, per il varo della manovra, in questi minuti dovrebbero aver raggiunto Palazzo Chigi per un incontro con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i segretari generali di CGIL, CISL, UIL, Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo. L'incontro era fissato per le 17, naturalmente è atteso il contributo dei sindacati per fare il punto sulla legge di bilancio. Oltre 100 milioni di evasione fiscale realizzati attraverso fatture false, quanto hanno accertato gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma. Complessivamente sono 21 le misure interdittive emesse, mentre sono in corso sequestri preventivi di beni nelle province di Roma e Latina per un valore di circa 20 milioni. L'indagine riguarda una serie di soggetti che, secondo gli investigatori, avrebbero fatto parte di un'organizzazione dedita all'emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. E chissà se queste iniziative criminali saranno ancora possibili con tutte le iniziative che il governo ha in mente di mettere in piedi proprio per intensificare la lotta all'evasione fiscale. Un'altra notizia che voglio darvi prima del primo approfondimento di oggi riguarda una statistica che è stata diffusa questa mattina dall'Istat, che riguarda le imprese attive nell'industria e nei servizi di mercato. Sono 4,4 milioni e occupano 16 milioni e mezzo di addetti, di cui 11,7 milioni dipendenti. La dimensione media di questa tipologia di imprese è di 3,8 addetti. L'Istat si riferisce al 2017. Il 5% delle imprese è organizzato in strutture di gruppo, spiega il rapporto. Per il quarto anno consecutivo continua intanto a crescere il valore aggiunto che deriva dall'attività appunto di queste piccole compagnie, di queste piccole imprese, più 3,9% nel 2017 rispetto all'anno precedente. Marcata anche la performance in termini di redditività, con il margine operativo lordo che lo scorso anno segna un aumento del 3,5%. Ne avremo tante di notizie in breve, ma direi di andare subito al primo tema di oggi. Allora, avete sentito prima nelle anticipazioni, ma lo stiamo raccontando da questa mattina presto, da quando abbiamo appreso che il premio Nobel per l'economia quest'anno è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer per l'approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. È un tema importante questo, perché ci dà un po' la misura dell'attenzione generale che c'è sul campo, sul tema delle diseguaglianze sociali, il tema anche della concentrazione della ricchezza che si concentra sempre di più in determinate mani, determinate portafogli, determinate aree geografiche, e naturalmente a scapito invece di altre aree che non riescono ad affrancarsi da una condizione di miseria estrema. Sono fenomeni sempre più evidenti e le aree di approfondimento in maniera sempre più incisiva da parte degli economisti. Allora io volevo sentire che cosa ne pensa rispetto a questo riconoscimento il professor Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, già ministro del welfare, già presidente dell'Istat. Professor Giovannini, buonasera. Buonasera a tutti. Conosceva questi tre economisti, professore? Non direttamente, ma certamente i loro lavori sono ben noti e segnalano da parte del comitato che sceglie il cosiddetto Nobel per l'economia, perché, come giustamente ricordato, il premio della Banca Centrale Svedese in memoria di Alfred Nobel, si inquadrano in una continuità. Negli ultimi anni il Nobel per l'economia è andato a economisti che si sono occupati di questioni sociali, di questioni legate ambiente, economia, pensiamo a Nordhaus, e quindi è evidente che c'è una finalmente attenzione molto maggiore a questi aspetti. Non scordiamo che anche altri premi Nobel, pensiamo a quello per la chimica, è andato a chi ha inventato le batterie al litio, sì, e quindi ha reso più facile una transizione verso una mobilità meno dannosa per l'ambiente. Quindi un riconoscimento su lavori fatti, ma anche su una proiezione verso il futuro, sulle grandi tematiche appunto del momento, come abbiamo visto proprio nei riconoscimenti attribuiti in questi giorni. Professor Giovannini, quali sono in questo momento, guardando proprio alla lotta alla povertà, le aree di approfondimento di voi economisti, guardando un po' anche all'impegno dell'alleanza di cui lei è portavoce? Normalmente quando uno pensa alla povertà pensa alla carenza di reddito o di ricchezza, naturalmente. Per tanti anni è stato questo, quindi povertà vuol dire non avere i mezzi minimi per sviluppare i propri piani di vita. Ma oggi sappiamo da molte ricerche che la povertà nasce molto presto, nasce quando si è poveri, da bambini, perché poi si ha una probabilità molto più alta di essere poveri da adulti. Vorrei ricordare, tanto per parlare dell'Italia, che abbiamo circa 1.300.000 minori poveri nel nostro paese, che quindi hanno un'alta probabilità di essere poveri in futuro. Ma poi sappiamo che c'è la povertà educativa, che vuol dire non solo abbandono scolastico, ma non avere quelle opportunità per studiare in modo adeguato e sviluppare le proprie capacità future. Sappiamo dalla scienza che per esempio i primi 6 anni sono molto importanti per sviluppare una serie di capacità, e quindi chi non frequenta neanche un anno d'asilo è svantaggiato a chi invece può frequentare l'asilo. E sappiamo che in Italia alcune regioni sono sprovviste di asili nido, e potrei continuare. C'è la povertà energetica, cioè tanti che pure hanno un reddito apparentemente adeguato non riescono ad avere una casa riscaldata adeguatamente. Ecco, la povertà è un fenomeno multidimensionale, e questo premio va proprio nella direzione di chi riconosce un approccio integrato alla povertà, che non è soltanto una questione economica, ma anche come impostiamo la nostra società. In molti sostengono, professor Giovannini, che ci si potrebbe affrancare o quantomeno rendere più visibili gli tanti sforzi che si fanno anche a livello di politiche pubbliche, laddove funzionano, se ci fosse una maggior partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Allora io le faccio ascoltare un piccolo pezzo di un intervento che Esther Daflo ha fatto alla Università Bocconi di Milano, pensi, nel 2010, una lecture, e ne abbiamo appunto proprio estratto una piccola parte per farle sentire che cosa diceva a questo proposito. Questo brano non è un brano appunto direttamente dalla voce di questa economista, ma noi ne avevamo riportato tutto il contenuto appunto sulle Sole 24 Ore. Oggi lo abbiamo ritrovato, sentiamo che cosa diceva su questo delicatissimo tema. La povertà e la mancanza di opportunità generano diseguaglianze fra uomini e donne. Quando lo sviluppo economico riduce la povertà, la condizione delle donne migliora da due punti di vista. Se la povertà si riduce, migliora la condizione di tutti, donne comprese. Inoltre, lo sviluppo economico rende i nuclei familiari più forti di fronte alla situazione di crisi, offre ai governi più risorse per proteggere i cittadini più poveri dalla fame e dalle malattie e dunque, anche senza focalizzarsi in modo specifico sulle donne, le favorisce di più. Lo sviluppo economico, tuttavia, non è sufficiente a produrre uguaglianza completa. Nella scolarizzazione primaria e secondaria il divario sta scomparendo, ma non è così nell'istruzione terziaria, anche se i numeri sono in aumento. Sul mercato del lavoro, anche nei paesi sviluppati, le donne continuano a guadagnare meno degli uomini a parità di qualifica professionale, a tutti i livelli. I diritti delle donne, in particolare quelli di proprietà, in molti paesi continuano a essere diversi da quelli degli uomini, e il divario nel campo della partecipazione politica si è ridotto di pochissimo. Professor Giovannini, le chiedo un pensiero su questo, sul tema di genere, ma anche su un altro tema. In tante aree del mondo, per consentire alle popolazioni molto povere di affrancarsi dalla libertà, sono state sviluppate le famose iniziative di microcredito. Secondo lei è uno strumento che vale ancora? Bisogna andare oltre il microcredito o bisogna rafforzare il microcredito? Ma intanto bisogna rafforzarlo, e viene anche rafforzato anche in Italia con iniziative importanti, perché il microcredito magari riesce ad arrivare a fornire un credito a chi non è, come si dice, bancabile, cioè per qualche ragione è stato messo ai margini dal sistema finanziario classico perché non ha le caratteristiche di bancabilità, come si dice. Però il tema sollevato nel brano è molto più ampio. Vi vorrei ricordare che nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, firmata da tutti i paesi del mondo, tra cui l'Italia, l'obiettivo 1 è proprio l'eliminazione della povertà, in particolare di quella estrema, l'obiettivo 5 è la lotta alle disuguaglianze di genere, l'obiettivo 10 è la lotta a tutte le disuguaglianze. E la disuguaglianza di genere, come diceva giustamente la vincitrice del premio Nobel, parte spesso dalla scuola, o quando non parte dalla scuola, parte dall'inserimento sul mercato del lavoro, e poi si realizza con asimmetrie inaccettabili di remunerazione tra uomini e donne a parità di funzione svolta. Sappiamo che in molti casi i criteri di selezione, e lo ricordo quando da direttore dell'OCSE fummo tutti obbligati giustamente a fare un corso su questi aspetti, la selezione è spesso distorta, perché i criteri che vengono applicati, oltre che le persone che fanno le valutazioni, sono spesso maschilisti o a favore degli uomini. Anche nell'uso delle parole, certo, con cui si fanno per esempio le vacancy, se si usano termini come competizione o competitività, gli uomini si sentono risuonare più forte delle donne. Se parliamo di cooperazione e di team working, o di creatività. Spesso le donne hanno invece una reazione molto più forte. Anche per candidarsi, certo, ad assumere certi ruoli. Quindi le discriminazioni attraversano la nostra società e restano ancora molto forti, non solo appunto tra uomini e donne, ma anche tra uomini e donne con stereotipi di genere che purtroppo resistono molto. Un ultimo commento, professor Giovannini, poi la lascio. Il Sole 24 Ore pubblica da qualche minuto un commento su questo riconoscimento di oggi di un suo collega, di Andrea Goldstein, che sottolinea come i tre docenti insigniti del Nobel per l'economia hanno diversi punti in comune. Insegnano a pochi chilometri di distanza fra Cambridge e Boston, Kremer è a Harvard, mentre gli altri due, che come ribadisco appunto sono sposati al MIT di Boston, sono giovani. Sono globali perfino sul piano personale, perché appunto Barenji e la francese Daflo hanno un figlio americano, e poi per quello che riguarda il contributo al progresso della ricerca economica sono pionieri dell'applicazione del metodo sperimentale all'economia dello sviluppo. Cioè il loro approccio è quello di dire: suddividiamo il problema grande in piccole questioni più gestibili, e questo porta ad ottenere risultati. Perché nella lotta alla povertà è un approccio corretto questo, professore? Ce lo potrebbe un po' descrivere per farcelo comprendere? Proprio perché la povertà è un fenomeno multidimensionale e dunque affrontarlo in modo integrato richiede affrontare i diversi pezzi che poi determinano una condizione di povertà. Io credo che uno dei pregi di questa scelta, ma che ormai si vede anche nei premi Nobel degli ultimi anni, sia la concretezza. Cioè, per molti anni l'Accademia che veniva intervistata, anzi coinvolta nella selezione degli economisti, è stata accusata di aver posto troppa attenzione all'economia matematica, a modelli teorici che poi avevano difficoltà a essere realizzati in pratica, senza voler aprire minimamente una discussione tra l'approccio matematico e altri approcci. È evidente che gli economisti nel mondo sentono il bisogno di mostrare che l'economia può essere applicata, non semplicemente in astratto, ma in concreto. E credo che l'approccio da loro sviluppato per paesi, tra l'altro, in cui la difficoltà è anche nella raccolta dei dati e anche nell'analisi delle politiche, sia proprio un riconoscimento al metodo sperimentale che dovrebbe invitare tutti gli economisti, come si dice, a sporcarsi le mani per realizzare quello che magari scrivono sui libri di testo. Grazie, grazie professor Giovannini anche per questa moral suasion nei confronti dei suoi colleghi, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Buona serata. Grazie a voi. Volevo solo ricordare un altro paio di cose relativamente appunto a questo premio, poi andiamo in pausa perché è tardissimo. Esther Daflo è la seconda donna nella storia ad aver ricevuto questo riconoscimento, a distanza di 10 anni dalla prima premiata, perché la prima donna ad essere insignita del Nobel per l'economia era stata Elinor Ostrom, che ha ricevuto il riconoscimento nel 2009 per il suo lavoro sulle analisi della governance, in particolare delle risorse comuni. Esther Daflo ha 46 anni, è la più giovane vincitrice di un Nobel per l'economia. Altra cosa che mi piace appunto leggere insieme a voi è la reazione che c'è stata in Italia rispetto a questo riconoscimento da parte di una comunità particolare. L'assegnazione del premio Nobel per l'economia a questi tre economisti che si sono dedicati alla lotta contro la povertà globale ci riempie di gioia e dimostra come sia stata saggia, giusta e lungimirante la scelta di Papa Francesco di convocare ad Assisi dal 26 al 28 marzo prossimo economisti ed imprenditori per un incontro su una nuova economia, Economy of Francesco. Lo ha detto il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. L'economia di oggi e di domani deve essere più giusta, fraterna, sostenibile e con un nuovo protagonismo di chi oggi è escluso. Con questo la prima pausa, ritorniamo tra pochissimo. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Chiude la seduta di Piazza Affari, meno 0,3% sul FTSE MIB, e chiude anche sulla via della chiusura anche la giornata per le altre piazze europee che si accingono ad archiviare la seduta in maniera migliore rispetto a come stavano andando le cose nella prima parte. Wall Street aiuta sì e no, perché gli indici sono poco sopra la parità. Chissà se ci credono o meno a questa prima fase di un accordo che potrebbe essere più complessivo e forse definitivo fra Stati Uniti e Cina. Paolo Paronetto, Radio Corriere, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, sì, qual è stato un po' il clima di questa prima giornata della settimana? Sì, diciamo che proprio gli listini sono rimasti un po' alla finestra in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Diciamo che c'è un po' di incertezza sulla tenuta appunto di questo accordo preliminare raggiunto venerdì, e prima di capire se davvero sfocerà in una pace tra le due superpotenze oppure no, gli investitori hanno preferito sposare un atteggiamento cauto. Da qui vengono quindi i lievi ribassi registrati da tutti i principali listini. Wall Street invece è sopra la parità più 0,15, il clima a New York è festivo, viste le festività appunto del Columbus Day, quindi diciamo che gli scambi sono piuttosto ridotti. Ah, ecco, mi stavi facendo spaventare perché li vedevo muoversi, ma non mi risultava appunto che ci fosse proprio la chiusura, invece abbiamo un'apertura, ma con un come quando capita da noi, magari, che ne so, nell'Epifania o in certe giornate di festa per il clima nazionale, ma le borse sono regolarmente aperte, ma chiaramente appunto i volumi ridotti. Farei il contrario di quello che facciamo solito, invece di occuparci del listino principale, andrei a due casi abbastanza importanti oggi che hanno movimentato la seduta invece sul listino complessivo, e ti direi di raccontarci la giornata e questo momento incandescente che sta vivendo un grande gruppo editoriale italiano, Gedi, che in borsa segna più 15%, le motivazioni ci sono, e poi anche questo poderoso recupero di Beyond più 23%, che è una società crocifissa in borsa da diverse settimane per tutta una serie di questioni legate ad un bilancio rassegnato non propriamente trasparente, secondo quanto accusa appunto un fondo di investimento. Cominciamo con Gedi, Paolo. Gedi è al centro appunto di questa battaglia interna proprio alla famiglia De Benedetti per il controllo del gruppo. La notizia è arrivata venerdì, questa offerta presentata dall'ingegner Carlo De Benedetti attraverso la sua Romed per acquistare il 29,9% di Gedi in mano a CIR, un'offerta al prezzo di chiusura di venerdì che sono 0,25 euro per azione, che è già stata respinta dal CDA di CIR perché è giudicata non adeguata al valore del gruppo. Però il mercato sembra scommettere sul fatto che si possa infiammare una gara per il controllo della società, infatti le azioni sono già ben al di sopra del prezzo offerto da De Benedetti, hanno chiuso a oltre 0,29 sì. euro per azione. Per quanto riguarda invece Beyond, che ricordiamo è da tempo molto volatile proprio in seguito alle accuse sulla gestione presentate dal fondo americano. Sì, diciamo molto volatile verso il basso fondamentalmente. Sì, soprattutto verso il basso. Esatto. Oggi c'è un recupero del 23,72%. La società oggi con un comunicato ha voluto ribadire la correttezza della redazione del bilancio 2018 e delle comunicazioni al mercato dopo l'esposto depositato appunto da Quintessential lo scorso 25 settembre alla Procura di Milano. Quindi diciamo che gli investitori, ovviamente che non sappiamo chi sono oggi, hanno voluto credere alla rassicurazione del gruppo e hanno spinto al rialzo il titolo, vedremo nei prossimi giorni naturalmente. Il migliore in assoluto è stato Colin Pharma, più 32%, qui abbiamo avuto un brevetto, no, che ha sostenuto il titolo. Sì, esattamente, una società che è una PMI innovativa, ha ottenuto un nuovo brevetto negli Stati Uniti, che è un mercato molto rilevante per il gruppo, e quindi fin dalle prime battute è stata premiata dagli investitori, ha chiuso con un rialzo del 32,57%, vedremo anche in questo caso se sarà sostenibile nei prossimi giorni. Andiamo alle blue chips, allora Juventus più 4% in un lunedì che peraltro non manifesta evidentemente reazioni per il campionato, gli operatori oggi proprio indecisi perché se si buttano sul calcio evidentemente tante altre occasioni di investimento. Certo, in un giorno senza partite. Sì. Ecco appunto, infatti, vabbè, questo non ha nulla da raccontare. Andiamo al settore bancario, che è stato molto movimentato nelle settimane passate da questa ipotesi di costituzione di un asse fra UbiBanca e il Banco BPM. Oggi fra questi due titoli l'ha spuntata meglio il Banco BPM, più 1,50%. Come mai? Questa è un'ipotesi un po' ricorrente, ogni tanto torna anche per le dichiarazioni degli stessi manager dei due istituti. E questa mattina, a dire la verità, entrambi i titoli, soprattutto Banco BPM, avevano aperto male in seguito ad alcune ricostruzioni di stampa che sostenevano che in caso appunto di fusione sarebbe necessario un aumento di capitale tra 2,5 e oltre 3 miliardi. I titoli quindi avevano perso oltre un punto percentuale, poi diciamo che il mercato si è un po' lasciato alle spalle questa speculazione e magari chi aveva venduto ha preferito ricoprirsi. Il titolo alla fine ha guadagnato l'1,5%, mentre UBI si è fermata a un più 0,15%. Poi andiamo a vedere invece fra sempre i migliori gli altri titoli che si sono messi in luce. Amplifon, che aveva un po' sofferto settimana scorsa, oggi recupera più 2,5 punti. Terna più 0,9, Fiat più 0,6, ricordati Snam e Pirelli in rialzo dello 0,4%, maglia nera della seduta Tenaris meno 2,64. Ci sono delle ragioni? Sì, beh, la prima ragione è la debolezza del prezzo del petrolio. Il greggio risente anche in questo caso dei dubbi sulla tenuta dell'accordo Stati Uniti e Cina, quindi il WTI perde il 2,6%, così come il Brent, quindi tutto il comparto dei titoli petroliferi o parapetroliferi naturalmente ne risente. In più, secondo alcuni report usciti oggi, Tenaris viene penalizzata anche per il recente rallentamento dell'attività di trivellazione negli Stati Uniti, che viene monitorato da un rapporto settimanale che a dire la verità nell'ultima settimana è salita, ma per la prima volta dopo 7 cali consecutivi. Quindi naturalmente una debolezza, un rallentamento dell'attività nel settore penalizza titoli legati proprio alle trivellazioni e all'attività parapetrolifera. Altre storie da raccontare, Paolo? Ma no, diciamo che abbiamo fatto una fotografia abbastanza esaustiva. C'è Mediobanca che è sempre sotto i riflettori in questo periodo. Il titolo oggi ha chiuso poco mosso, un rialzo dello 0,15%. Naturalmente il tema sono gli sviluppi nell'azionariato dopo l'ingresso di Leonardo Del Vecchio, che ha anche velatamente criticato l'attuale gestione. Oggi è uscito un report di Deutsche Bank che invece si schiera con decisione con l'amministratore delegato Alberto Nagel e consiglia di comprare il titolo. Vedremo anche qui gli sviluppi. Grazie a Paolo Paronetto. Radio Cori, il Sole 24 ore. Vi segnalo intanto che gli Stati Uniti sono in questo momento indecisi. Dow Jones più 0,10%, Standard & Poor's sulla parità. Peraltro nelle prossime ore iniziano anche a rassegnare i dati le big americane e ancora una volta inizia il settore finanziario. C'è il traffico, a tra pochissimo. Faircam Air & Ocean non conosce confini, spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Dovranno essere 5 minuti più incisivi del giorno, quelli che adesso trascorreremo con Gianni Trovati del Sole 24 ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Allora, prima di tutto io voglio sapere se abbiamo capito se e quando si riunisce il Consiglio dei Ministri per dare il via libera al documento programmatico di bilancio che domani deve essere inviato a Bruxelles, o entro domani. È un requisito, credo, fondamentale che ci sia un via libera dal Consiglio dei Ministri, oppure è già pronto e può partire così? No, allora deve esserci un via libera del Consiglio dei Ministri, ma quando si riunirà il medesimo, non avendolo capito nemmeno loro, non lo abbiamo capito purtroppo. Nemmeno noi. C'è una possibilità ancora che si riunisca questa sera, c'è un'ipotesi che parla delle 21 o comunque insomma in tarda serata, e c'è un'altra ipotesi che si riunisca domattina. Va detto che concluso il lavoro sul documento programmatico di bilancio, è di fatto chiuso anche l'accordo sulla manovra, nel senso che il documento programmatico di bilancio deve contenere tutte le misure e il loro valore, quindi nei fatti ti devi mettere d'accordo prima di scrivere. Insomma, e proprio questo è il dato che sta creando incertezza sulla riunione del Consiglio. Allora, complessivamente ribadiamo quanto dovrebbe valere questa la legge di bilancio. Siamo intorno ai 30 miliardi e con qualche segnale che si stia salendo verso 31-32, con la ricerca di ulteriori coperture, alcune delle quali con misure molto innovative, tipo l'aumento delle accise sulle sigarette e sugli imballaggi di plastica, tutte le robe che fanno male, diciamo, ai polmoni o all'ambiente o a entrambi. c'è ancora in gioco la questione delle accise sul diesel, ci sono nuove misure fiscali sui giochi. Tutti questi filoni, appunto, non del tutto, come dire, alcuni dei quali non del tutto innovativi, danno la conferma per tabulas che c'è un lavorio sulle coperture aggiuntive che dovrebbero configurare una manovra un po' più grande dei 29 miliardi di cui si è parlato fin qua. L'altro grande o comunque l'altro terreno di scontro delle ultime ore è stato il mantenimento o meno di quota 100. Partito fondato appunto da Matteo Renzi non ne vuole più sentir parlare, mentre il governo, dalle parole appunto di Di Maio, c'è l'intenzione assolutamente contraria, non è messa in discussione questa opzione. Sentiamo che cosa ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Quota 100 è una misura sperimentale, in quanto tale deve continuare fino alla sua infatti naturale chiusura, per poi nel frattempo pensare a un sistema di riforma previdenziale che superi definitivamente la riforma Fornero, che quindi sia un sistema più giusto, più equo per i nostri cittadini italiani. I renziani non governano da soli, ma governano con una maggioranza. Ripeto, è una misura sperimentale che, secondo il Ministro del Lavoro, va mantenuta così com'è, fino alla sua naturale scadenza. Gli altri terreni su cui le forze di governo si sono maggiormente accapigliate, Gianni, quali sono stati? Ma allora, sostanzialmente, andando per titoli, le cosiddette manette agli evasori, cioè l'abbassamento delle soglie di punibilità dei reati fiscali, che i 5 Stelle premono appunto per abbassare in maniera piuttosto importante rispetto ai limiti attuali che, ricordiamo, sono stati alzati pochi anni fa dal governo Renzi, quindi anche su questo è verosimile che, come dire, l'accordo sia lontano da trovare. Sempre in tema di lotta all'evasione, questa doppia stretta sulle compensazioni fiscali, che era stata anticipata al Sole 24 Ore qualche giorno fa, è un altro tema che divide, ma va detto che da questo punto di vista, diciamo così, per dirla in italiano, i controlli a tutto campo sulle preventivi, prima quindi di poter effettuare la compensazione fra debiti e crediti, che avrebbero il problema di allungare i tempi delle compensazioni anche per chi è in regola, insomma, per i contribuenti onesti, quindi creando problemi di liquidità, è però un tassello abbastanza fondamentale. Per le coperture complicate della manovra, quindi è difficile che ci rinunceranno. 30 secondi, Gianni, per fare un punto anche sul tema del taglio del cuneo fiscale, che è molto atteso dalle imprese. Avevamo una dichiarazione che non riesco a far ascoltare di Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo industriale, che oggi è intervenuto a margine dell'assemblea di Federacciai, della quale parleremo nella seconda parte della trasmissione. Qui la quadra è stata trovata? Qui la quadra è stata più o meno trovata, il taglio al cuneo fiscale diventa di 3 miliardi il primo anno per poi salire a 5,5 dal 2021 e sarà concentrato verosimilmente su questo, ovviamente sui lavoratori dipendenti, sulle fasce di reddito fino a 26.000 euro, quelli che hanno già gli 80 euro, ma poi c'è un'estensione anche, si studia fino a quota 35.000 euro, quindi dovrebbe essere sostanzialmente la misura più significativa sul fronte del dare qualcosa agli italiani all'interno della manovra. Grazie a Gianni Trovati per il collegamento di questa sera. Linea al giornale radio, torniamo subito dopo. Focus Economia. Eccoci di nuovo ritrovati a Focus Economia. Donald Trump aveva detto good things are happening, stanno verificandosi delle buone cose, delle buone situazioni, e quindi a quanto pare, insomma, poi ha avuto ragione di questo suo pronostico, perché è stato raggiunto venerdì scorso questo primo sostanziale accordo commerciale, la prima fase di quella che poi è stata ribattezzata un'intesa più ampia. Abbiamo centrato una sostanziale fase 1 dell'accordo. Naturalmente ci riferiamo alla diatriba che va avanti da molte settimane fra Stati Uniti e Cina sull'applicazione appunto dei dazi commerciali. Questa intesa di massima, propedeutica ad un'intesa più ampia, blocca, almeno per il momento, sperando che non ci sia un ritorno appunto all'escalation, il nuovo aumento dal 25 al 30% dei dazi su 250 miliardi di export cinese. Bloccato questo round, in teoria non dovrebbe partire neanche quello che sarebbe dovuto partire poi in dicembre su una categoria molto speciale di beni, PC, tablet, merci tecnologiche, e questo è un tema interessante, perché in realtà su questa categoria di merci, se si fosse applicato appunto questo nuovo round di dazi, come vi dicevo, si sarebbe compromessa molto, e forse molti dicono questa è la motivazione per cui Trump ha fatto in modo che non partisse questo nuovo blocco. Appunto, si sarebbe bloccata notevolmente anche la stagione di vendite di regali di Natale, e in quel periodo appunto l'economia americana gira in maniera anche piuttosto significativa. Allora, cosa vuol dire questo nuovo punto delle trattative fra Stati Uniti e Cina? Cerchiamo di fare un punto della situazione con il professor Giorgio Barba Navaretti, docente di economia internazionale all'Università Statale di Milano, ma anche editorialista del Sole 24 Ore. Professor Barba Navaretti, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qua. Intanto le volevo chiedere se conosceva gli economisti che hanno avuto oggi il riconoscimento, il Nobel per l'economia, e il loro lavoro appunto per la lotta contro la povertà. Sì, sì, certamente loro sono molto noti, soprattutto appunto la francese Duflo è molto nota, e anche quello che in realtà è suo marito, ma insomma tutti e tre sono molto noti, perché sono quelli che hanno iniziato ad applicare l'economia sperimentale ai temi dell'economia, sì, dello sviluppo, cioè andando a intervenire proprio sul campo, cercando di capire come interventi specifici in contesti particolari possono avere degli effetti positivi, ovviamente, ma facendo degli esperimenti sulla popolazione. E sono temi molto interessanti, proprio la frontiera della ricerca nell'economia dello sviluppo. Quindi un Nobel ben meritato, ed è anche bene che sia una donna, e soprattutto la più giovane vincitrice. È vero, l'abbiamo sottolineato. Giovani e donne, esatto. Esatto, è proprio anche questi profili globali, perché l'indiano sposato con la francese, hanno il figlio americano. Abbiamo sottolineato questi aspetti nella prima parte con Enrico Giovannini, quindi grazie per averlo sottolineato di nuovo. Allora andiamo invece alle questioni dalle povertà alle superpotenze economiche, Stati Uniti e Cina, e questo accordo sostanziale, un'intesa di principio che però deve essere ancora finalizzata. C'è da crederci, professor Barba Navaretti? Il mercato mi sembra molto guardingo oggi, forse perché teme che in realtà basterà un tweet di Donald Trump per rimettere un po' in discussione tutto, ma insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuova fase che abbiamo scritto nelle ultime ore? Beh, diciamo che Trump ci ha abituati a dover essere un po' guardinghi. Secondo me è, diciamo, un segnale abbastanza importante, perché forse è un'inversione di tendenza, nel senso che la ragione dell'accordo, per quanto sia per ora un accordo piuttosto superficiale, ha diciamo così, motivi profondi, nel senso che è chiaro che negli Stati Uniti inizia ad esserci un disagio piuttosto forte per queste misure, per quanto molti americani e molti degli attori economici americani siano preoccupati da come si dice della Cina sui mercati internazionali. D'altra parte, barriere commerciali iniziano a colpire in modo significativo soprattutto gli agricoltori, per esempio, e infatti una delle misure che sono state concordate è l'acquisto da parte della Cina di prodotti agricoli americani in quantità maggiore di quanto non fosse fatto fino ad ora, e anche naturalmente poi vengono poco a poco colpiti anche i settori industriali, perché come sappiamo i settori industriali comunque usano componenti che vengono prodotte in Cina, e quindi queste componenti importate dalla Cina sono soggette ai dazi, e questo rende meno competitiva l'industria americana. Quindi purtroppo le guerre commerciali poi fanno male sia chi le subisce sia chi le impone, e quindi sono, diciamo, in economia si cercano sempre le soluzioni win-win, dove tutti vincono, questa è una soluzione loss-loss, dove tutti perdono. Quindi insomma un passo indietro, una buona notizia, speriamo che tenga. Un ascoltatore scrive: secondo me fra Stati Uniti e Cina stanno giocando a tirarsi i sassi con la fionda. Dalla mini intesa, professor Barba Navaretti, rimane ancora fuori la questione del trasferimento delle tecnologie, punto sul quale le posizioni fra le due parti sono estremamente distanti. Sì, questo rimane un nodo cruciale ed è chiaro che questo è il tema fondamentale, poi se vogliamo, perché ormai la competizione, la concorrenza della Cina non è più tanto fatta sul costo del lavoro, ma quanto proprio su temi di tecnologie, sulla frontiera della tecnologia, e quindi da questo è un punto inevitabile. Infatti vedo che già ci sono delle dichiarazioni da parte del segretario del Tesoro americano che dice che comunque non è detto che i dazi non si rialzino se non si arriva ad un accordo più complessivo, quindi è chiaro che gli americani vogliono arrivare a un accordo più complessivo, però sarà molto difficile raggiungere e qui rischiamo che l'accordo sia un accordo di facciata, ecco, più che un accordo sostanziale. Ma se è un accordo di facciata basta a fermare la guerra commerciale, sarebbe comunque una buona notizia, perché così non andiamo da nessuna parte e tutti si fanno del male. Certo. In questa vicenda, come in tante altre, Donald Trump ha manifestato il suo carattere, insomma, molto originale, e che a volte sembra anche un po' al limite del conflittuale con se stesso, nel senso che da una parte porta avanti questa battaglia con la Cina che ha delle inevitabili ripercussioni in borsa e quindi nell'economia reale, e gli effetti li vedremo sicuramente anche con le prossime statistiche ufficiali. Peraltro fra un po' riparte anche la stagione delle trimestrali, vedremo anche se, adesso non dico le banche, ma magari altri settori di altri ambiti economici appunto hanno risentito di questa prima fase di guerra commerciale che al momento sembra poi sospesa. Dall'altra parte, quando l'economia rallenta, mette in croce la Banca Centrale Americana, gli chiede di allentare i tassi, e quindi insomma degli atteggiamenti un po' tutti da studiare. Professor Barba Navaretti, lei ha scritto in diversi commenti anche sul nostro giornale molto duri sulle iniziative del presidente americano, dice insomma un presidente particolarmente ottuso. Beh, diciamo che soprattutto un presidente che nega quelle che sono le implicazioni di quelle che sono le sue azioni, nel senso che ovviamente le usa a fini politici, ma nega che possano avere degli effetti non come prevede, non negativi. Quindi è chiaro che se la borsa cade perché lui ha messo delle barriere commerciali, ha alzato le barriere commerciali, come sempre avviene quando c'è un aumento della guerra commerciale, è chiaro che è colpa sua questo, però evidentemente deve attuare un meccanismo psicologicamente dissociativo per poter dire no, non è così, in realtà la colpa è di qualcun altro, quindi c'è sempre un capro espiatorio se non è lui. Ma chiaramente queste azioni di Trump stanno creando molta incertezza, certo, e molti problemi sull'economia globale. Un ultimo commento proprio su questo: quanto pagherà l'economia globale di tutto questo? Ancora non abbiamo visto tutti gli effetti? Ma ci sono dei dati che sono piuttosto inquietanti, sono usciti dei dati del che mettono, insomma, che imputano una quota significativa del rallentamento dell'economia mondiale all'aumento della guerra commerciale e dall'incertezza che ne consegue. Quindi le cifre sono piuttosto alte, sicuramente. Grazie a Giorgio Barba Navaretti per essere stato con noi. Buona serata, un'altra pausa, torniamo tra poco con l'assemblea di Federacciai. Focus Economia. Leggo dalle agenzie qualche dichiarazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha parlato con i cronisti ad Avellino, a Morra de Sanctis, dove ha visitato alcune aziende e ha detto: è importante il sostegno per le famiglie, il piano per le famiglie, il piano per gli asili nido. Questo, come ricorderete, era anche un punto fondamentale del suo discorso di insediamento alle Camere, quando gli è stato conferito appunto l'incarico di formare il nuovo governo. Queste, ha promesso, sono le cose che troverete in manovra, una manovra che guarda al futuro, con cui non disperdiamo risorse, anche perché abbiamo risorse limitate. Bene, aspettiamo di vedere, insomma, la manovra di bilancio, una manovra abbastanza significativa, più di 30 miliardi di euro, come avete sentito prima da Gianni Trovati, probabilmente tendente verso i 32. C'è un settore che è tutt'altro che indifferente rispetto al tema che abbiamo finito di affrontare poco fa con l'economista Giorgio Barba Navaretti, cioè la questione dei dazi. Il settore è il settore siderurgico italiano. La siderurgia italiana è strutturalmente in buona salute, ma sta vivendo un periodo un po' complicato, con volumi produttivi calati nei primi 9 mesi di quest'anno del 4,4% rispetto all'anno precedente. Questo è quanto è emerso nel corso dell'assemblea annuale di Federacciai che si è svolta a Milano. Buonasera a Flavio Bregant, direttore generale di Federacciai. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, voi questa mattina avete dato, ovviamente passato in rassegna, un po' di dati che ci raccontano lo stato di salute di questo comparto assolutamente rilevantissimo per il nostro paese, riconoscendo però che l'Italia non è l'unico paese in contrazione in Europa con la Germania, Francia e Polonia. Ma il settore siderurgico sta andando comunque verso una ripresa. Cominciamo con l'analizzare il punto negativo, i dati negativi riferiti agli ultimi mesi, direttore, oppure andiamo a guardare già in prospettiva a quelli che sono i segnali positivi che state intercettando? Ma certamente il momento è di difficoltà, è un momento mondiale, il mercato dell'acciaio è un mercato particolarmente globalizzato, quindi tutti i segnali negativi che ci sono in giro per il mondo ovviamente hanno ripercussioni anche sul settore nazionale. In questo momento soffriamo anche di una forte sovracapacità produttiva nel mondo e questa sovracapacità si riversa sui mercati liberi come quello europeo. Quindi sono condizioni sinergiche in negativo di cui evidentemente accusiamo i riflessi. Per questo fine anno, ormai la fine anno è domani, diciamo vediamo una sostanziale stabilità. Poi c'è fiducia negli imprenditori che l'anno prossimo si potrà vedere qualche segnale di ripresa. L'acciaio è una produzione ciclica, quindi. E quindi chiaramente bisogna vedere anche il contesto economico di riferimento. La questione dei dazi l'avete tenuta sotto osservazione nelle ultime ore. Vi convince questo approccio positivo al tema che in questa fase stanno manifestando le due superpotenze, direttore? Ma guardi, il tema dei dazi, noi ci siamo dentro già l'anno scorso, sì. Perché Trump ha cominciato proprio con l'acciaio e l'alluminio a mettere, sì, dei dazi di protezione del proprio mercato. È chiaro che quindi questo ha perturbato in modo significativo il mercato mondiale, i flussi del mercato mondiale. L'Europa ha dovuto mettere delle misure di difesa e quindi stiamo già maneggiando questo problema da tempo ed è un problema complicato perché la distorsione dei flussi ovviamente va verso i mercati liberi, i mercati più indifesi. Certamente le guerre commerciali tra le due grandi potenze non aiutano e anche tra Stati Uniti ed Europa peggiora le cose, perché è chiaro che al di là del settore diretto i nostri settori di sbocco sono la meccanica, sono le costruzioni, quindi se Trump mette i dazi sulle auto, sulla meccanica, ovviamente soffriamo in modo indiretto anche noi, certo, come siderurgici. Oltre alle questioni economiche nazionali e la questione macroeconomica internazionale, ovviamente nell'ambito dell'assemblea di questa mattina si è discusso in qualche maniera anche un po' di questioni politiche e in particolar modo della corsa alla presidenza di Confindustria, che è stata al centro di un commento che abbiamo raccolto dal presidente dell'associazione Giuseppe Pasini. La corsa alla presidenza di Confindustria potrebbe non essere solamente fra uomini del nord, ha detto Pasini, sentiamolo. Ho avuto questo mandato da Brescia e niente, cosa di vedere di coinvolgere altri sul mio nome. Sta raccogliendo attestati di stima anche fuori dal... Fa piacere. No, è una domanda. Qua, è la mia famiglia. Questa la ritengo la mia famiglia, il mondo dell'acciaio. Sì, ma fuori dal perimetro bresciano sta raccogliendo altri attestati di stima. Non lo so. Magari che qualcosa di inaspettato. Non mi sono ancora mosso. La corsa sarà tra uomini del nord, sembra. Non è detto che non ci sia altri che corrono. Ma guardate che più persone, più imprenditori corrono, più evidentemente c'è la volontà anche da parte degli imprenditori di mettersi in gioco e questo dimostra anche l'attaccamento, diciamo così, nei confronti di Confindustria. non si vota solo negli Stati Uniti l'anno prossimo, ma anche in Confindustria, appunto, per la designazione del nuovo presidente. Non le chiedo naturalmente, Bregant, un commento su questo, ma le chiedo però di argomentarci quello che è stato chiesto questa mattina dal presidente Alessandro Banzato, di aprire un dialogo con il mondo politico italiano da parte della categoria. Banzato ha detto: dopo una lunga latitanza rispetto ai problemi reali dell'industria, abbiano i politici la sensibilità e l'umiltà di vedere i problemi anche dal nostro punto di osservazione. Su che cosa vi piacerebbe aprire un tavolo? Allora, certamente noi abbiamo bisogno che il mondo politico ci ascolti, ascolti la manifattura in generale, perché la manifattura è il settore portante dell'economia italiana ed europea in generale. Abbiamo fatto un incontro col parlamentare europeo per dire le nostre tematiche, le nostre problematiche. Vorremmo avere un'interlocuzione con il governo per parlare di rilancio del settore e dei settori consumatori di acciaio. Vorremmo avere un'interlocuzione col governo per parlare di competitività e quindi mantenimento della competitività sui fattori della produzione. Un altro punto delicato è quello che ha lo studio in queste ore, ma in realtà è scritto nero su bianco, è qualcosa di più che un semplice provvedimento allo studio, ma dovrebbe concretizzarsi con delle percentuali, delle cifre precise, il taglio del cuneo fiscale. Su questo punto abbiamo sentito, sempre a margine dell'assemblea di Federacciai, Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo. Sicuramente, pur rendendomi conto della ristrettezza delle risorse, ritengo che il governo dovrebbe fare una scelta di campo, dovrebbe avere il coraggio di appunto fare scelte anche di discontinuità, privilegiando il mondo produttivo, le imprese e i lavoratori. Quindi credo che più risorse, insieme magari ai crediti d'imposta sugli incentivi agli investimenti, dovrebbero essere un po' più ampi. Voi avete detto questa mattina, Bregant, che i punti che considerate prioritari come categoria, come settore siderurgico, sono un rilancio nel campo delle infrastrutture, un sostegno ulteriore ad Industria 4.0, una campagna per l'ambiente, per l'energia. Sul tema del cuneo fiscale, insomma, vi piace la direzione che sta prendendo l'iniziativa del governo? Serve anche questa misura alle aziende per dare un po' di rilancio al tema occupazionale italiano? Cuneo fiscale è sicuramente un tema molto importante, e il taglio del cuneo fiscale sui lavoratori mette in gioco della risorsa e della liquidità, che ovviamente aiutano il consumo. Se le risorse fossero sufficienti, sarebbe opportuno che il taglio fiscale andasse sia sui lavoratori che sulle imprese. Questo aiuta senz'altro gli investimenti, dipende da quante risorse mettono in campo. Grazie al dottor Bregant, direttore generale di Federacciai, Flavio Bregant, per essere stato con noi. Oggi è stata la giornata dell'assemblea di Federacciai a Milano, intanto anche per questa sera Focus Economia termina qui. Grazie alla redazione, grazie alla regia. Noi ci risentiamo domani a 2 di Denari. A tutti, buona serata.